la richiesta del messaggero. Erano giorni che Alan non riusciva a venire a capo di alcuni messaggi che ogni notte apparivano sugli schermi dei suoi computer. In piena notte, le macchine si accendevano, la sveglia suonava, lui si svegliava di soprassalto e regolarmente trovava questo messaggio: perché non metti la tua rabbia al nostro servizio? Altro che rabbia, Alan era furioso. Parolacce, bestemmie, imprecazioni di ogni tipo che io tradurrei in: chi è questo nullafacente che mi scrive queste cose che non servono niente? Una notte accadde l'impensabile, e Alan si spaventò di brutto. Le macchine si accesero tutte, contemporaneamente, la sveglia prese a suonare all'impazzata, Alan si svegliò stordito, provò a spegnere la sveglia ma quella continuava, gli schermi dei computer e dei telefoni producevano immagini a casaccio, finché tutto si spense. Alan rimase seduto sul letto immerso nel silenzio assoluto e nel buio pesto. Non sapeva cosa fare o cosa pensare. Dopo alcuni minuti di smarrimento stava per rimettersi a dormire. Quando nel buio apparve una sfera d'argento, grande come un pallone da basket. Apparve davanti a lui, a sieno 30 centimetri dal suo viso, immobile, muta, per sparire di colpo, lasciando Alan nel puro panico. Gli ci volle un po' per riprendersi e poter riuscire a dormire. Appena rivide Andrea e Marcel disse di non raccontargli più le loro storie metafisiche perché lo avevano suggestionato tanto da fargli fare degli incubi. Ma sia André che Marcel non diedero peso al suo tono minaccioso perché conoscevano Alan, al contrario insistettero che raccontasse di che incubi fossero, ma lui niente, non raccontò nulla, continuò invece a lamentarsi di quello che accadeva alle sue macchine e del messaggio che continuava a ricevere. Una notte però non poté confondersi, perché quello che accadde non lo trovò addormentato. Era appena rientrato nella sua stanza. Era notte fonda, ma non era stanco, non era ubriaco. Si sdraiò sul letto e decise di accendere la radio. La radio non si accese. Perse immediatamente la pazienza, si alzò in piedi nervosissimo. La luce della lampada vicino al letto si spense e si ritrovò al buio. Non fece neanche in tempo a brontolare che davanti a lui apparve una colonna di luce argentata altissima, luminosissima, accecante. Alan indietreggiò spaventato e si ritrovò seduto sul letto con gli occhi fissi sulla luce che si avvicinò a lui minacciosa. La colonna di luce si raggomitolò su se stessa formando una sfera. Che immobile davanti ad Alan sembrava fissarlo. «Ciao Alan», la sfera di luce parlò, Alan sobbalzò, «te lo ripeto ancora una volta», disse, «perché non metti la tua rabbia al nostro servizio?» Alan era disorientato, la voce che parlava era una bella voce femminile, quieta, gentile. «Ma chi sei?» chiese Alan flebilmente. «Il mio nome è Abuya», rispose subito la luce, «appartengo al clan di Gabriel. Sono qui per portarti la guarigione». «Ma io sto benissimo», rispose Alan. «No», rispose Abuya. Alan avvertì un inaspettato tono ironico in quella risposta. «Alan, io sono qui per te», continuò Abuya. «Ma chi ti ha cercato?» Alan non capiva, quelle erano cose che accadevano ad André, qualche volta a Marcel, ma lui? Lui era un materialista, scettico, irreligioso, miscredente, eretico, ateo. Insomma non aveva alcun sentimento o attitudine spirituale. «Alan», insistette Abuya, «te lo ripeto, perché non metti la tua rabbia al nostro servizio?» «Ma cosa potrei fare io?» rispose stranito. «Esattamente questo, trasferire la tua rabbia al nostro servizio», concluse Abuya. La sfera di luce sparì. La luce della lampada si riaccese. Alan rimase seduto sul letto incredulo. Ci vollero un po' di giorni prima che Alan raccontasse cosa gli fosse accaduto ad Andrea e Marcel, era troppo a disagio, proprio a lui dovevano accadere certe cose? La sua paura era anche di ritrovarsi a perdere il suo tempo in meditazioni e filosofie metafisiche verso cui non aveva nessun interesse, e non voleva neppure iniziare ad averne. Però conosceva Andrea da troppi anni e in effetti ai suoi occhi non gli era mai parso uno di quei tipi che camminano a piedi nudi nei boschi abbracciando alberi o recitare il rosario verso la luna. Prese coraggio una sera dopo uno spettacolo di Marcel, mentre cenavano raccontò tutto ai suoi amici. «Benvenuto nel club», sorrise André. «Ci faccio una coreografia», disse Marcel. «Tutto qui?» Si era fatto tanti problemi per avere queste reazioni. Alan rimase di stucco. Si rassicurò, per fortuna niente era cambiato. Non era vero,